Bentornati a Dedicato, buon anno, buon 2026 da tutto lo staff di Dedicato. Parlo io a nome di tutti perché sennò chi ci conosce sa che si creerebbe un grande caos a far parlare tutti. Perché? Perché insomma questi festeggiamenti per il Capodanno, soprattutto anche per il Natale, ma per il Capodanno di più, tra i nostri giovani, il nostro staff, insomma, hanno creato momenti simpatici, divertenti, ma molto caotici come al solito. Potete immaginare quanto abbiamo suonato, cantato, insomma è stato, vabbè, festeggiamenti. Quindi dato che ci sono grosse novità con Radio Città Fujiko e quindi ci ascoltano anche in Lombardia, in Toscana, imparerete a conoscerci. Dedicato è una trasmissione per i giovani, con i giovani, e quindi questo momento settimanale su Radio Città Fujiko è quello dove i giovani hanno possibilità di esprimersi, di dire veramente il loro punto di vista a 360 gradi, senza censure e senza che nessuno gli comunichi come dire le notizie, ma in totale libertà. Quindi alle volte possono risultare un po' pesanti, ma è il loro punto di vista, quindi noi li ascoltiamo e ascoltiamo soprattutto i loro pensieri. Questo ci piace, perché cavolate ne sentiamo già abbastanza tutti i giorni. I pensieri dei giovani invece vanno ben oltre le cavolate, come dire, anche se a volte possono sembrare un po' così. Perché tutto questo preambolo? Perché oggi ricominciamo il nuovo anno con i laboratori di Dedicato. Dedicato, essendo una trasmissione così un po' ampia, no, con i giovani per i giovani, abbiamo detto, va a spaziare su diverse modalità di trasmissione, quindi ci sono le interviste, ci sono i momenti invece di condivisione, i momenti in cui si suona, perché molti dei nostri ragazzi dello staff sono musicisti anche, e sono tutti ragazzi che vanno dagli 11 ai 18-19 anni, poi vabbè ci sono quelli un po' più grandi, insomma abbiamo uno staff veramente ampio che si esprime liberamente quando vuole, quindi non siamo mai tutti in studio insieme, ma capita che appaia qualcuno così. Invece i laboratori di Dedicato sono momenti nelle scuole, nelle biblioteche, nei parchi, quando la stagione lo consente, in giro per l'Italia. Realizziamo dei momenti di radio con i ragazzi, ma quello che ci interessa di più all'interno delle scuole, che siano bambini o ragazzi, sono i contenuti che loro tirano fuori, e quindi noi lanciamo delle tematiche e loro lavorano sui contenuti e creano dei momenti radiofonici veramente speciali. E questo ci tengo a dirlo e a fare i complimenti anticipatamente a tutte le classi che quest'anno lavoreranno con noi, perché sono sempre veramente dei momenti meravigliosi. Adesso andiamo ad ascoltare la prima A della scuola Testoni Fioravanti dell'Istituto Comprensivo 5 di Bologna, situato nel cuore della Bolognina, quindi quartiere veramente vivo e frizzante. E questi ragazzi sono una prima media, quindi secondaria e inferiore, sono ragazzini che hanno tra gli 11 e i 12 anni, ma hanno tirato fuori veramente un percorso bello, perché la loro professoressa di italiano quest'anno ha scelto e mi ha chiesto di dedicarci a una tematica specifica, che sono gli alberi. Da qui nasce tutto il nostro laboratorio, che era teatro e radio, e andiamo ad ascoltare questa prima A. Che cosa ha fatto? Degli alieni hanno attaccato la città. Una tizia strana è arrivata in classe e ci ha spiegato cose sugli alberi. Ma che cavolo stai dicendo? Ora vi raccontiamo come sono andate le cose. Abbiamo cominciato un progetto sugli alberi. Una signora di nome Erika del progetto Dedicato ci ha insegnato la loro vita attraverso dei lavori di gruppo. Cioè, scusate un attimo, l'aliena sarei io che sono venuta in classe? Sì. Ah, ok. E anche la signora Erika del progetto Dedicato, signora, sì, l'avete chiamata? Sì. Ma in realtà volevamo fare che tipo tu, che eri l'alieno, ci mettevi in cantina e ci raccontavi le storie sull'albero in cantina. Le storie in cantina, le storie horror praticamente. Sì, buio, sugli alberi mostri. Sugli alberi. Ah, certo, una signora aliena horror che è venuta e vi chiude in cantina per raccontarvi le storie sugli alberi. Esatto. Mi piace questa roba. Ok, grazie ragazze. Stiamo per registrare insieme dei monologhi che sono scritti dai nostri ragazzi della prima A. Ognuno di loro nel percorso sugli alberi ha scritto un monologo intitolato Sono una foglia. A questo punto noi glieli facciamo recitare, perché il nostro laboratorio è stato un laboratorio di teatro e podcast dove abbiamo messo insieme tutto questo materiale realizzato da loro. E noi adesso vogliamo ascoltare i nostri attori che recitano le loro poesie, i loro pensieri, i loro racconti sulla tematica Io sono una foglia. Ma prima abbiamo un'interazione, c'è uno di loro che vuol fare un'introduzione, vediamo, vediamo. Prego. Salve bella gente, sono arrivato qui, comando io, questo posto è mio, l'ho comprato e sto bene. Ti stanno ridendo in faccia i tuoi compagni, non te lo vorrei dire. Fatti curare, dicono. Fatti curare. Ok. Non hanno rispetto, sti bambini di oggi. Non hanno rispetto. Ritirati. Bene, mi sa che qua i bulletti maranzini non sono accettati in questa classe. Mi sa che no. 2291991. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Sino scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, sin un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu li assuverà. Cado piacio dalla mia indio, un momento roccupà. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro curro guaglio. Tanta ammazzata, ma una buona l'ammarata. È nata. Nata. Centro sociale occupato. Nata. Centro sociale occupato. E mogo cazzo c'è cacciata. È nata. Nata. Centro sociale. 99 posse, curre curre guaglio. Grazie ragazzi per questa scelta musicale, perché appunto le musiche e tutte le canzoni che sentirete in queste puntate con la prima A della scuola Testoni Fioravanti della Bolognina sono assolutamente scelte dai ragazzi. Ci hanno pensato loro, io non ho detto nulla, mi hanno dato un elenco di canzoni enorme, quindi lì ho dovuto un attimo scremare per forza. Avevano scelto tanta musica che a noi non piace, quindi fra le scelte dei ragazzi abbiamo diciamo così, accantonato e messo per un secondo momento eventuale le canzoni che ci piacevano meno, quelle magari che parlano di cose un po' più violente, dove ci sono un po' troppe parolacce o dove ci sono anche dei contenuti, insomma, non troppo interessanti, diciamo così. Però ragazzi, non vi offendete, la scelta musicale alla fine l'avete fatta voi e mi avete dato 30 canzoni, io su 30 canzoni ne ho dovute selezionare per forza, quindi non vi offendete, sono comunque, è un ascolto meraviglioso quello che ci state facendo fare in queste puntate, quindi grazie. Torniamo al percorso Sono una foglia. Andiamo ad ascoltare il primo dei ragazzi che ci racconta Io sono una foglia. Sono una foglia, un po' stropicciata, gialla, sottile, appuntita, con un po' di arancione e dei puntini neri. Sono una foglia morsicata, marrone e gialla, un po' storta solo il ramo, un po' stropicciata, mi muovo molto. Ciao, che ti ciao. Muovi molto è verissimo. Tutte le parole sono complimenti. Tutto. Sei un grande ottimismo nella vita, bello, bello. Sempre essere felici. Come scusa? Sempre essere felici. Fantastico. Vai, ascoltiamo te. Sono la foglia rossa, rotonda con dei puntini neri, sono una foglia felice. Ma bello che sei felice. Sono una foglia piccola, un po' allungata, di un giallo scuro con qualche macchiolina marrone. Ho un gambo piccolo e sottile, le mie venature sono molto piccole. I miei contorni sono un po' zigzagati. Sono appese sul ramo di un castagno. Di fianco a me vedo crescere piano piano ricci con dentro le castagne. Vedo i bambini raccogliere dall'alto del mio ramo e ogni tanto si punzecchiano con le spine del riccio. Sono una foglia, sono bella come la mela. Mi piace il mio colore, mi piace la mia forma. Sono dritta come la penna, sono come la forma d'un albero. Se mi toccano ti sento bene, non ti fa male, ti fa felice. Sono la foglia dritta. Sono una foglia appena caduta da un albero, sono felice, ho i bordi spessi, sono verde, sono normale e ho voglia di vivere. Sono una foglia verde, stropiccata, e piccola, sottile e stanca. Se io fossi foglia sarei diversa, un giorno sono liscia, un giorno sono ruvida, ci sono giorni buoni e giorni meno buoni. Oggi è un giorno buono, sono una foglia di quercia, stropicciata, frastagliata, anche brutta per alcuni. Ma io mi piaccio, non penso a quello che dicono gli altri, io sono foglia e sono bella come sono. Credo che questi pensieri siano veramente molto personali, belli. Io sono foglia e sono bella come sono. Sono una foglia verde, piccola, ancora chiara, liscia, che sta iniziando a sentire il vento in previsione del grande momento, il momento di staccarsi e diventare matura. Sono una foglia stropicciata, sottile, alluffata. Sono una foglia verde e lucida, con una forma perfetta e tondeggiante, però a scuola divento secca e stropicciata. Sono una foglia 3D, spinoso e giocoso. Mi piace giocare a calcio e a basket. Sono una foglia verde luminosa e un po' timido, ma qualche volta sono una foglia seccata. Dov'è che ti secchi? Quando è che diventi seccato? Beh, quando sbaglio. Oh, ma gli errori si devono fare nella vita, anzi, servono per cambiare, crescere, modificarsi. Sì. È bello fare degli errori, poi dopo basta saperci porre rimedio, no? Sì. Giusto? Quindi non ti seccare se fai degli errori. Non sei d'accordo? Che cosa hai da dire su questa cosa degli errori? Dimmi che non bisogna proprio farli gli errori? Ma è impossibile. Cioè, tipo sei dei genitori un po' cattivi. I genitori cercano di voler bene ai loro figli a modo loro. Gli errori bisogna farli per crescere. A volte. Abbiamo trovato un compromesso. Sono una foglia, piccola e sottile, rossa autunnale. Le mie vene grigiastre come le nuvole del cielo. Io sono diversa da tutti perché sono speciale. Io sono una piccola foglia verde, una parte importante dalle ante. Posso avere varie forme, aiuto a regolare la temperatura. Faccio ombra ad animali e uomini. La vuoi dire in English? I am a little leaf and green. I am an important part of plant leaves. Leaves come in many shapes and sizes. I also help regulate the plant's temperature. I provide shade and shelter for animals and humans. Sono una foglia piangente, dinamica, oblunga e andante. Sono una foglia piccola, principiante, ignara del mondo circostante. Sono una foglia luminosa e rosa che è caduta da un albero chiamato acero. Sono caduta giù, però ho visto delle foglie gialle, ruvide, quindi in quel momento mi sono sentita diversa. Tutti siamo un po' diversi, cosa dici? Sei d'accordo? Sì. Ognuno di noi ha una diversità meravigliosa da esprimere. Sono una foglia che adora giocare, odia la pioggia, sono sensibile, sono depressa. Se arriva la pioggia. Ah, ok. Voglio stare nel mio ramo, voglio restare nel mio albero. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Gangsta Paradise, un altro dei brani scelto dai nostri ragazzi della prima A. Grazie ragazzi. Allora, era un sacco di anni che non ascoltavo questo pezzo, è stata un'ottima occasione per riascoltarlo. Molto bene, andiamo avanti in questo percorso e andiamo ad ascoltare un secondo gioco, esercizio, insomma, diciamo parte del nostro laboratorio, che era la creazione di uno spot. Allora, abbiamo diviso la classe in piccoli gruppi E ogni gruppo doveva creare uno spot su che cosa? Sulla prima A, sulla loro classe. Ascoltiamo e vediamo che cosa è successo, cosa hanno tirato fuori i ragazzi. Tutti noi siamo la prima A, tutti quanti attivi e sportivi. Siamo tutti stupendi e magnifici, siamo competitivi, felici e amici. Questa è la prima A! Siamo simpatici e divertenti. Venite a trovare la prima A, perché vi accoggiamo con tanta gioia e felicità. Siamo un po' chiacchieroni, ma sappiamo gestire le nostre emozioni. Venite a trovare la prima A nella nostra società. La domanda di questa sera A. La prima A, perché bisogna ascoltarla? Ve lo diciamo noi, ma prima di tutto iscrivetevi sul nostro canale YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat. Ma prima ricordatevi di mettere mi piace e inoltre commentate con una buona recensione e condividete. Siamo una classe movimentata, simpatica, disciplinata. Estroversa, originale, ma allo stesso tempo classica. La parola tranquilla non è contemplata. Noi siamo la prima A! Noi siamo gli alberi della prima A, A, A, A, A. Quando a noi ci spostano di posto sappiamo già che non dureremo per l'eternità. A, A, A, anche se non si saprà. Se siamo uniti gli altri sono finiti, la parte della prima A. Qua continuano a parlare, oh, però stiamo cercando di fare un laboratorio. Io sono un albero perché... Perché ho sonno, dormo tanto e mangio. E quindi ti senti un po' albero? Certo, sono okay. Un albero, sono il l'albero. Il l'albero, il l'albero. Chiamerei la prof di italiano per questo articolo. È Lilla? È Lilla. È Lilla. È Lilla. Prof, faccia qualcosa nell'immediato futuro. Bravo, sta segnando, segna sul registro. Tu sei un albero perché? Perché in questa città piena di macchine e case ci vorrebbe un po' di natura. Ok. Tu? Perché io ho voglia di vivere. Perché ho fame, cioè mi piace mangiare, troppo buono. Gli alberi danno cibo, ok. Io sono un albero perché mi piace dare ossigeno. Io non sono un albero perché vieni dalla natura. Perché sei un albero? Perché combatto. Combatti, bello questo. Perché un salice piangente colpisce la gente. Perché voglio dare i frutti alla gente. Io sono un albero perché mi piace stare nella quiete e quindi mi ricorda un po' l'albero. Ciao. Ciao mascotte. Siamo di nuovo nella tua classe. Perché sei un albero? Perché sono un albero. Sono un albero perché voglio aiutare le persone che hanno bisogno di cibo. Sono un albero perché posso vivere in natura. Sono un albero perché sono molto gentile con gli altri. Sono un albero, mi piace volare. Sono un albero perché mi piace far parte della natura. Sono un albero perché sono un re albero. Sono un albero perché mi piace aiutare gli animali. Non mi guardare così, di qualcosa. Vabbè, perché? Non era questa domanda. Qual era la domanda? Era... Che cosa fai da albero? Avevo sentito che cosa fai da albero? Io da albero faccio box per difendermi dai falegnami che mi vogliono tagliare. Sei un grande. Mi ero preparato da prima per questa risposta. Ah, ti eri preparato anche? Già. Sei un mito. Sono un albero perché mi piace. Ok, salutate gli ascoltatori di Dedicato. Ciao! Un po' più tipo vivace. Cos'è so? Ciao! Ok, grazie. E noi ci risentiamo mercoledì prossimo alle 13, sempre su Radio Città Fungico con Dedicato e sempre con i ragazzi della prima A. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato. chissà mai perché hai dimenticato a Playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio.